98. Ravioli all'uso di Romagna. I romagnoli, per ragione del clima, che richiede un vito di molta sostanza e un poco, forse anche, per lunga consuetudine a cibi gravi, hanno generalmente gli ortaggi cotti in quella grazia che si avrebbe il fumo negli occhi. Talché spesse volte ho udito nelle trattorie: cameriere, una porzione di lesso, ma bada, senza spinaci. Oppure: di questi, indicando gli spinaci, ti puoi fare un impiastro sul sedere. Esclusa quindi la bietola o gli spinaci, eccovi la ricetta dei ravioli all'uso di Romagna. Ricotta, grammi 150, farina, grammi 50, parmigiano grattato, grammi 40, uova 1 e un rosso, sale quanto basta. Fate tutto un impasto e versatelo sulla spianatoia sopra un velo di farina per dargli la forma cilindrica che taglierete in 14 o 15 pezzi uguali, foggiandoli a modo. Lessateli poi per 2 o 3 minuti in acqua non salata e conditeli con cacio e sugo di carne, oppure serviteli per contorno a uno stracotto o a un fricandò.